Welcome, Federico. The system is ready to jack in. Bentrovati a Medium, il podcast su Netrunner. Io sono Dennis e questo è Hostage. Come in ogni puntata abbiamo un ostaggio. Se nella prima era Federico Latini, in questa vi avevo anticipato che avremmo avuto un birraio bolognese. E si tratta di Francesco Cesco Baralai. Ciao. Allora, come ben sai, prima di lasciarti andare devi rispondere a una cinquina di domande. Questo è lo scotto. Questo è lo scotto, ma sarà abbastanza indolore. Prima di tutto, io non lo so, magari sono ignorante io, è una cosa stupida. Perché Baralai? E poi come si scrive Baralai? Perché? Allora, Baralai si scrive esattamente come si pronuncia. Poi vabbè, è stato nell'arco dei vari anni girato per metterci lettere, per metterci numeri al posto delle vocali e robe simili, ma più che altro perché era un nick già preso. Baralai è un personaggio del bruttissimo Final Fantasy X-2, è un personaggio secondario, solo che quel personaggio ha avuto su di me un appeal assolutamente irresistibile. Adesso lo cerco su Google. Sì, è un tizio con una blusa blu e gialla e i capelli bianchi tirati da una fascia, giovane, abbronzato. Però era un personaggio cartola. Allora da lì, siccome completamente obbrobriato da quel gioco, ma volendo restare nell'ambito RPG, non sapendo che i Morpg non sono alla fine RPG, creai il mio primo personaggio Morpg, che fu appunto Baralai, e niente. Quello rimase da sempre, per sempre. E ti sei mai vestito da Baralai a qualche... No, io no, nonostante lo desideri tantissimo, non ho mai avuto il coraggio di fare cosplay per davvero. Cioè c'è la parte fanciullesca di me che lo trova qualcosa di meraviglioso, però non lo so, non riesco a passare la barriera mentale di dire sono un deficiente di 25 anni travestito da cartone animato. Perché qua su Google vedo, al di là delle immagini del personaggio che io non conoscevo, un panzone giapponese vestito da questo tizio, e ci sta, insomma, faresti la tua figura anche tu, magari. Ah, una figura la si fa lo stesso, bisogna vedere quale. Vabbè, ma quello è secondario. Vabbè, no, per un torneo forse... A Verona, se troviamo il coraggio, qualcosa lo facciamo. Vabbè, diciamo che il nome introduce la presentazione di questo giocatore che è Baralai. E prima di parlare del giocatore, vorrei chiederti qualcosa riguardo al Circle Evolution, perché tu hai il Circle Evolution a Bologna, perché immagino tu sia bolognese, no? Sì, sì, sì. Allora, birraio bolognese l'ho azzeccato. Birraio improprio, però. No, birraio non è improprio, perché al circolo, come ho apprezzato, si può anche mangiare e bere, e quindi le birre ci sono anche in abbondanza. No, vorrei, dato che al Circle Evolution ci sono stato, ci saranno stati, anzi ci sono stati sicuramente tanti altri giocatori, che tu mi parlassi di questo circolo, di che cosa vuol dire per te a livello personale, ma anche di che cosa vuol dire per Netrunner, perché immagino che non solo tu ma in tanti hanno cominciato lì o si sono innamorati lì di Netrunner. Sì, direi più che altro a Bologna, credo tutti, sì, direi tutti, almeno quelli che si sono poi dopo sticcati al gioco organizzato, ecco. Niente, long story short, 2 anni fa, infatti a settembre proprio faremo il secondo anno, praticamente venne in mente a me e ad altri 5 ragazzi, più o meno, io sono il più piccolo dei 5 fondamentalmente. Sì, siamo ragazzi ancora, dai. Esatto, beh, però diciamo che loro girano sui 30-40, io sono il più piccolino. E ci è venuto in mente di, sostanzialmente, a seguito del fatto che il negozio in cui giocavamo a Vitesse, Vampire di Eternal Struggle, il terzo gioco di carte di Garfield, praticamente quello con ambientazione vampiri, quel negozio aveva sostanzialmente espresso la volontà di insomma, di non vederci più, perché purtroppo non eravamo quel tipo di giocatori che occupavano diversi tavoli, ma oggettivamente, giocando tutti da molti anni, non è che comprassimo chissà quante cose. Per cui fondamentalmente, insomma, c'è stato questo piccolo screzio e ci è venuto in mente che alla fine di associazioni ludiche a Bologna svincolate dai negozi non esistevano più, e da lì cosa si fa? Se non c'è, la invento. Ci siamo messi un pochino lì, nell'arco di 2 mesi abbiamo trovato il posticino in via San Felice 107 e nell'arco di altri 3 mesi sostanzialmente l'abbiamo rimesso a posto e siamo partiti tutto quanto end by end. L'idea è quello di fare l'idea era quella, che poi si è realizzata, quella di essere un ludopub completamente svincolato appunto dai negozi, in forte collaborazione per creare sinergia con i negozi, ma sostanzialmente per decentralizzare i giocatori, per tirarli un po' fuori dal loro gruppo di giocatori abituali, vedi giochi da tavolo, giochi di ruolo, e per sostanzialmente fare un mashup tra le varie comunità che frequentano i vari negozi e vedere di fare qualcosa di più. Qui c'è stato qualche barriera giustamente imposta dai negozi, ma dopo sostanzialmente un po' tutti hanno realizzato che effettivamente la sinergia è potente e il vantaggio è grande, per cui siamo riusciti a fare qualcosa che mette un po' tutti, cioè che ha reso un po' tutti un pochino più felici di giocare, ecco. Il posto in sé è molto bello perché... Grazie. Innanzitutto è comodo, facciamo un po' di pubblicità al... È comodo perché io ho studiato a Bologna 5 anni, quindi più o meno la conosco come città. Sì, sì. Dalla stazione ci vogliono 15 minuti a piedi, 10, e per chi sì, poi è servitissimo in autobus, sì, in ogni sì. caso. E per chi ha fatto il pendolare come me non è minimamente un problema. Poi è accogliente quando entri perché sei isolato dal resto del mondo in un certo senso. Sì, è un dannato bunker come qualsiasi stanza da gioco di qualsiasi giocatore, che generalmente chi ha le stanze da gioco in casa, amici con le stanze da gioco, vede che le collocano o in mansarde o in scantinati, cioè posti con meno finestre possibile per staccarsi il più possibile dal mondo vero, sì, no? Diciamo, è un po' questa la prassi. Diciamo che non siamo noi nerd ad allontanarci, ma sono gli altri che, insomma... Che non penetrano su. Non ci vogliono, allora. No, a parte gli scherzi, è grande, è vasto, quindi sì, c'è spazio sì, per tutti. Quando abbiamo fatto il torneo di Netrunner lì, mi pare giocassero anche a un gioco di miniature, Warhammer. Sì, forse. C'era un torneo di Warhammer contestualmente. Ci siamo stati tutti tranquillamente. C'è la sala fumatori, poi c'è questo bar, vabbè, fantastico, quindi niente. E quindi a livello personale, per te immagino valga veramente tantissimo, perché costruire sì. una cosa propria dal nulla è sempre un qualcosa di incredibile quando la vedi vivere, sopravvivere, evolversi e tutto, no? Non solo, cioè questo genere di gratificazione come la tua personale, cioè hanno un impatto morale incredibile, anche nella giornata no, in cui lì dentro non ci voglio mettere piede perché cavolo, di nuovo basta. Perché capitano ovviamente, sì, perché comunque sì. è una responsabilità, sebbene guadagno non ce ne sia, anzi è una responsabilità. In ogni caso c'è anche soltanto una parola del genere, ti dà una carica che è inspiegabile, veramente inspiegabile. Ah beh, penso che anche altri la pensino in questo sì, modo. Sì, sì, infatti è una cosa che mi rende molto molto orgoglioso. Io devo ammettere che la prima volta che ci sono venuto col Costa, io ero convinto che il Circo Evolution fosse un altro negozio di giochi da tavolo che avevo visitato quando studiavo lì. E quindi tranquillissimo ho detto al Costa, sì sì, so io dov'è sto posto, tranquillo, ci arrivo. Lui c'era già stato ma non si ricordava. In realtà ho preso una cantonata, non sapevo minimamente cosa fosse il Circo Evolution, però boh, ci sono arrivato lo stesso. Quando sono entrato ho capito che non era l'altro, però ho detto boh. No, evidentemente... siamo molto vicini all'altro negozio, no, sì. Perfetto, allora, l'altro negozio non è lì, non è lì. Non no, non è lì, è nella parallela. È chiuso poi, mi pare abbia chiuso, sì. No, ancora no. No. Questione di mesi, però. Questione di mesi. Sì. E invece, per quanto riguarda il meta di Netrunner, lì ha iniziato a evolversi il gioco. Sì, sostanzialmente si può dire che Bologna, parallelamente con Reggio, è stato un po' il secondo ovulo, almeno per quanto riguarda il nord di Netrunner. Io sostanzialmente, non so, qualcuno l'ha già raccontato, praticamente mi sono avvicinato a Netrunner in questa maniera e così è iniziata la missione di propaganda. Sostanzialmente si fanno pochi tornei di board game, anche se ce ne sono veramente molti. Questo perché i negozi ovviamente sono economicamente non interessati a riempirsi di persone che giocano ad un board game di cui hanno già il board game, sostanzialmente. Quindi primo scopo del circolo era dare spazio a tutti quanti questi tornei di giochi da tavolo. Allora era l'epoca in cui veniva fuori, un po' come adesso sta venendo fuori Doomstown, nota di redazione, tenetelo d'occhio che è un giocone, veniva fuori questo Netrunner, un po' tutti ne parlavano bene, un po' nessuno se lo cacava nei negozi. Allora niente, ho detto boh, ma se noi questo Netrunner proviamo a fare a vedere un po' com'è e a fare qualche torneino qua dentro, magari qualcuno si avvicina. In che periodo siamo? Ah beh, siamo circa, credo fosse il dicembre dell'anno che abbiamo aperto, quindi 2012. Sì, credo di sì. E niente, 4 giorni dopo avevo 2 corset. Dopo mi ero fatto il printed di tutte quante le carte insieme ad un mio amico. Abbiamo provato il gioco, 4 giorni dopo avevo 2 corset. E da lì, boom, ruzzola. Come ha detto anche Federico Latini nell'altro podcast, mi vedeva giocare. Federico poi è uno molto curioso, me l'ha chiesto. Da lì ho contaminato Fede e Fede a sua volta ha cominciato a spargere il virus, è stato un periodo molto fiorente, poi sostanzialmente ancora non c'era Paddo a gestire il gioco organizzato, per cui era tutto quanto un po' buttato alla carlona, senza la struttura di un gioco organizzato potente come adesso, un po' di persone hanno perso interesse, però c'è stato un grande periodo fiorente che adesso sta ricominciando, tra l'altro sto facendo demo di Netrunner al circolo frequentemente, anche perché sono, quando non sono dietro al bar sono con un mazzo in mano, e anche diversi negozi mi stanno chiedendo per l'appunto di andare a fargli le serate. Fu così con il Goblin Bologna, che per la verità di sua iniziativa fa le serate, che lui ha infognato tanto quanto me, Davide, e altri negozi, un po' Casalecchio eccetera, mi stanno un po' dicendo ma tu sei quello che gioca Netrunner, che parla soltanto di quello, che dice che è bellissimo, ne ho sentiti altri, vieni a farmi una demo, track. Beh, fantastico. Ma fantastico perché la community sta diventando sempre molto più, non solo estesa, ma anche interessante. Ci sono persone interessanti, ci sono ragazzi intelligenti, ragazze, adulti, giovani. Sta diventando qualcosa di concreto sempre di più. E il tuo circolo sicuramente è stato uno dei primi, dei primi ovuli, come hai detto tu, che una similitudine bella ma imbarazzante, o imbarazzante sì, ma bella, come preferisci. Va bene, e, cambio argomento. Parliamo di viaggi. Perché parliamo di viaggi? Perché io, quando ho iniziato ad avvicinarmi al gioco, a Netrunner, spiavo un po' il sito netrunner.it, gli vari articoli. E in particolare, cosa curiosa, tutti gli articoli che parlavano dei tornei, ho notato che più o meno la gente era sempre quella, ma c'era una persona che a tutti i tornei c'era, ed eri tu. Insomma, baralai, se il torneo era in Sicilia ci andava, se il torneo era a Torino ci andava, e così via. Quindi ho iniziato a pensare, cavolo, questo è uno che ne sa, che ne viaggia, insomma. E però so anche, insomma, mi sono informato, sono uno che si informa. Fatti i compiti. Sì, che nonostante io non usi Octagon, tu invece lo usi alla grande. Lo abuso. Lo abusi. È un discorso che avevamo toccato forse, che aveva toccato forse anche Federico, se non ricordo male. Ma com'è giocare su Octagon rispetto a giocare dal vivo? E qual è il vantaggio che ha uno e qual è il vantaggio che ha l'altro? E dimmi un po' tu, anche a livello di viaggi, qual è il viaggio che hai preferito, qual è il torneo che hai preferito? Quindi una domanda doppia. Partiamo da Octagon per spostarci poi lungo i tuoi viaggi, resoconti. Allora, Octagon, diciamo, ha il difetto di togliere molta della componente umana, sostanzialmente, di Netrunner, gli Ipsy Game, non quelli imposti dal regolamento, intendo, il bluff, il cogliere le espressioni facciali, le titubanze, che sono elementi che certi giocatori riescono a cogliere molto bene. Per esempio Federico è un mostro in questo senso, cioè Federico, se respiri a un decibel più alto, anzi un millibel più alto, lui senz'altro se ne accorgerà e avrà la conclusione giusta per questa tua reazione, veramente un mentalista. E, altre persone invece hanno più difficoltà, anzi per molti sono misleading, diciamo, questi atteggiamenti, per cui Octagon sostanzialmente, eliminando questa componente, va a vantaggio o svantaggio di certi giocatori, per cui sebbene sia Netrunner comunque sono due cose diverse, sono calcio e calcetto, d'accordo? Cioè non credo che ce ne sia uno migliore o uno peggiore, sono semplicemente differenti. Altra differenza, questa è la differenza sostanziale. Altra differenza è che Octagon permette di avere un ambiente di gioco sostanzialmente anche troppo forse eterogeneo, il che senza certi parametri di discernimento, insomma, porta a una visione del gioco molto falsata. Di contro però è un allenamento formidabile Octagon per individuare senza troppe, diciamo, senza troppo sforzo, delle situazioni di gioco o ricondurle ad altre in cui sei più familiare e quindi avere la risposta. Questo si traduce in un ottimo allenamento per i tornei in cui c'è il fattore stanchezza, che ragazzi è molto più che determinante in Netrunner. Cioè, io me ne sono reso conto appunto a Torino. Io generalmente quando porto un mazzo ad un torneo fisico cerco di portare il miglior mazzo che posso, il miglior mazzo il cui rapporto sforzo-profitto sia alto, sostanzialmente. Quindi mazzi più forti, che però mi richiedono molto più sforzo, per me non sono mazzi da portare a torneo. Questo perché con l'andare del torneo sostanzialmente va a decadere molto dell'attenzione, della concentrazione. Esatto, esatto. A Torino, appunto, quando sono arrivato alle ultime due partite di top 4, dopo una sveglia alle 6 del mattino, 3 ore di viaggio, 5 turni di Svizzera, una partita di top 4, le ultime due, ero in quella condizione un po' onirica in cui mi rendevo conto che stavo giocando male, ma non riuscivo ad aprire non stavo giocando al meglio, ma non riuscivo ad aprire delle finestre per svoltare. Quindi la componente stanchezza funziona molto e Octagon, è molto importante, e Octagon ti permette di aver già visto bene o male una situazione, data la massa di situazioni che si presentano, anche assolutamente assurde. Anche perché i buoni giocatori di Netrunner, o perlomeno la maggior parte di quelli con cui gioco, decisamente, hanno un po' la sindrome di scala 40, nel senso che tengono d'occhio praticamente tutto, perché come dici tu, la conoscenza è potere. Nel senso che in scala 40 tu sai che se è andato via l'8 di cuori, che comunque non puoi andartelo a rivedere dagli scarti, la matta, cioè il jolly, lo metterai nell'8 di cuori se ti servirà. Viceversa, cambi strategia se sai che delle carte sono già state eliminate. Allo stesso modo in Netrunner quasi tutti i buoni giocatori fanno il conteggio sui punti influenza, sì. Fanno conteggio su quanti snare sono andati via, quanti shock ci sono ancora, quante carte sono ancora disponibili per l'avversario. Ed è normale e fisiologico che dopo 2, 3, 4 partite queste cose uno non riesca più a farle in automatico e le debba fare col ragionamento, col pensiero, con lo sforzo, e quindi si vada a perdere poi tutto il resto, come dici tu. Esatto. Per quanto riguarda invece le tue esperienze di viaggio, hai un qualcosa di interessante? Sì, sicuro. Allora, sì, quando sono stato a Pescara mi sono divertito veramente tanto, perché diciamo, nonostante il torneo non fosse stato dei più vasti, a dispetto del fatto che fosse un Chronos Protocol. Devo dire che l'ospitalità è stata over 9000 proprio. Serata da rosticini, pomeriggio al mare, partite molto molto distese, con un meta tra l'altro che io non conoscevo, quindi c'è stata anche, diciamo, la, come posso dire, lo sfizio agonistico di adattarsi come elemento oggettivamente esterno, ma non soltanto geograficamente parlando, proprio all'interno di un metagame, e di dover imparare subito quali sono un pochino le tendenze di quel metagame, che diciamolo era un po' chiuso in se stesso, per cui funzionavano cose che funzionavano con loro, non so come dire, un po' il discorso dei metagame, ecco. Ed è stato molto piacevole, senz'altro, e stimolante. Agonisticamente parlando, devo dire che il torneo del Regional di Torino è stato assolutamente forse il più impegnativo, sia appunto per il discorso della stanchezza e della fatica, sia perché, ragazzi, ho trovato soltanto che avversari formidabili dal turno 1, cioè non ce n'era nemmeno uno in cui magari potessi dire con arroganza: beh, quel mazzo non è proprio un granché. Non c'ero io, quindi proprio non avevi i tuoi quattro. Devi metterti a giocare i mazzi seri, Danny, sto spacchi i culi. Comunque, per cui c'è da minuto 1 a minuto 57.000, credo, vista la durata di quel torneo, è stato un crescendo di difficoltà, fino al culmine totale, in top 4, in cui ho fronteggiato Paolo in una partita assolutamente, Paolo Ranzani, in una partita assolutamente epica, in cui lui ha avuto la meglio facendo la mossa giusta al momento giusto nel contesto giusto, come, cioè, gli capita il 99% delle volte. Non è ma ragazzi, questo, ma Paolo è due mosse avanti, c'è poco da fare, cioè. Paolo gioca con 5 click da runner e 4 da corp, decisamente Paolo proprio è due mosse avanti. Però nonostante tutti questi viaggi e tornei, non sei stato quello che ha fatto più viaggi e tornei, perché no. Il professore, di cui parleremo dopo, mi pare che sia al primo posto. Esatto, e un altro sopra di me in quanto presenze è Alex. Anche lui è un bel passista, ha portato la sua anarchia un po' dappertutto. E ha fatto molto bene a portarla dappertutto. Adesso facciamo una pausa. A differenza del solito, cioè di ciò che ho fatto nella prima puntata e ciò che farò le prossime, ho chiesto all'ostaggio di scegliere una canzone per Wildside. L'ultimo desiderio. Io non conoscevo questo Pigeon John, giusto? Pigeon John, ma nemmeno io, per la verità. Ecco, allora abbiamo detto qualcosa. Perché questa canzone, The Bomb? Cosa può c'entrare con Netrunner? Mai fatto un paragone prima? Beh, sostanzialmente immagino che sia un po' per il testo, un po' per la cadenza. Mi ricorda molto quella che potrebbe essere, non so, la giornata tipo di Noise quando si sveglia, quella esplosiva spensieratezza di essere una dannata bomba, fondamentalmente. E poi il ritmo così, diciamo, piacevole, spensierato, dà il giusto tono, secondo me, a quel personaggio. Giù al Wild Side probabilmente sarà una delle canzoni suonate, immagino, dai DJ laggiù. Quindi a Frost piacerà, la sentiamo? No, credo che Frost la odierà, però diciamo che in tema magari potrà riconoscere con riluttanza, se, essendo lui una persona molto molto gentile, che ci può bene o male centrare qualcosa. Stavolta i meriti della scelta te li prendi tu, la sentiamo. Okay, wake up in the morning to the clear blue sky. Turn up the music when I hop in the ride. The windows down, let the whole world see. Can't nobody rock it like little old me. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. I got my chucks and my dickies and I put it on black. Banging Sinatra in a flat Cadillac. My old lady leaning out the whole window. Everybody looking when we walking slow. I'm the bomb and about to blow up. The bomb and about to blow up. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, free to be a legend, even if I'm old. I ain't chasing nothing, you gon' have to catch me. And if you wanna taste, you gon' have to pay a fee. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. Put my molly ring walls and my little scarecrows. When they hear my record, well, they all hit the floor. Babies like a pose, come up in the front row. The homies in the back, get the hats to roll. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. Won't you clap your hands? White folks, do it on time if you can. Sounds good, now here's the plan. Let's all sing together like we in the same band. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and okay, now we gonna reach another whole new level. Grabbing the light on the run from the devil. Been downtown for too long. I feel the sun rising on the green heart. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and I'm about to blow up. Whoa. Era The Bomb di Pigeon John. Anch'io io non la conoscevo, però su YouTube ha 2 milioni e 500 mila visualizzazioni, quindi evidentemente sono io che sono molto, molto scarso, molto limitato. Torniamo a noi. Prima abbiamo citato il professore e non possiamo non parlare del vostro podcast. Non torniamo sui discorsi che avete approfondito, perché avendone già parlato ed essendo stati così bravi non ha senso che ne riparliamo anche qua. Innanzitutto vi faccio i complimenti, perché tutto merito suo. No, non è vero. I vostri scambi di battute sono intelligenti, sono ironici e poi a livello tecnico siete ottimi. Innanzitutto, a livello di podcast abbiamo tante cose, tante scelte eterogenee. Al di là del fantastico Federico, che ha il merito di avere indirizzato tutti, abbiamo tanti podcast diversi, ognuno racconta qualcosa di diverso. Al di là di questo, è una cosa che avete analizzato all'inizio della vostra puntata, però te la richiedo: cosa si propone di fare il vostro podcast? Qual è il vostro intento? Allora, sostanzialmente il nostro intento è quello di fornire una visione di, diciamo, questo podcast nasce bene o male come una sintesi delle elucubrazioni che io e Nicola e anche Federico, ci si mette spesso e volentieri, facciamo sul gioco, sul meta. E Nicola, mentre io mi baso prettamente sul mio vissuto e sulla mia esperienza nel determinare, diciamo, nel decidere qualcosa, perché una Katie Jones è meglio di una Tizio Caio, per dire, Nicola, d'altro canto, ha un approccio molto più didattico, ovvero cerca fonti, calcoli, eccetera. Quindi c'è un lavoro di ricerca e un lavoro, se vogliamo, sostanzialmente di esperienza, che combinati insieme generano queste discussioni. Perché non sintetizzarle, visto che il materiale che c'è, cioè le fonti sono confermate, verificate, noi non le mettiamo, ma chiunque volesse chiedere qualcosa può farlo, abbiamo chilotonnellate di link da dargli per l'approfondimento. Cosa stavo dicendo? Ah sì, siccome bene o male ci sono questi due fattori, ripeto, tutto è opinabile nel nostro podcast, anche le fonti, sono giocatori come noi che hanno magari attitudini matematiche o tecniche di un certo tipo, ci sanno spiegare perché matematicamente o oggettivamente qualcosa sulla carta è meglio di un altro. Insomma, tutte quante queste cose qui le abbiamo messe insieme, abbiamo sintetizzato i nostri ragionamenti, sintetizzato per farvi capire, il podcast è uscito così, immaginate cosa sono le chiacchierate, e di volta in volta un po' affrontiamo un argomento diverso sulla base di quello che leggiamo un pochino sul gruppo. Proprio dal tuo podcast, il primo con Fede, è venuto fuori il discorso economico, abbiamo detto, beh, perché non partire da lì? E mano a mano, un po' via richieste, un po' via quello che vediamo che interessa, cerchiamo di dire la nostra. Il dire la nostra è dire un po' quello che si trova anche sostanzialmente in rete fuori dall'Italia. Quindi sono senz'altro altri meta, altri tipi di giocatori, altre mentalità. Tutto da prendere con le pinze, però è tutto quanto di sicuro a beneficio del giocatore che ha il senso critico di utilizzare ciò che gli è utile e scartare ciò che gli è inutile. Assolutamente sì, e poi usate anche una terminologia molto appropriata, insegnate sempre qualcosa di nuovo, quindi siamo, parlo a nome di tutti, abbastanza curiosi di vedere su dove andrete. Avete già qualche idea o, come avete detto alla fine della puntata, aspettate anche dei suggerimenti? No, abbiamo qualche idea, però diciamo che la priorità è quella di plasmarci su quello che vediamo. Diversamente c'è il B-Plan istituito, ecco. Una volta sarebbe carino, dato che il professor è molto, molto tecnico, molto didattico come hai detto tu, fare una puntata in cui voi due parlate del fattore bluff che hai citato prima per quanto riguarda la domanda su Octagon. Vedere come Nicola si destreggia in questo discorso. È un po' complesso, senz'altro affronteremo l'argomento psi game, ma inteso proprio come la meccanica psi del gioco, e spiegheremo perché è stato certificato che matematicamente può succedere qualcosa o qualcos'altro, ecco, fondamentalmente. Insomma, tutte quante le funzioni, ovvio, cioè, pane per piccioni, ma le motivazioni per cui lo psygame funziona bene in certe maniere e male in certe altre. Quindi si prescinderà completamente l'aspetto, mi è sembrato di intuire che lui stesse guardando quell'ice rezzato, quindi magari pensava di usare un credito in meno perché gli ne servono 5 per rezzarne a 6, quindi spenderà da 0 a 1 anziché 2. Ecco, queste cose no. Però matematicamente spieghiamo il random system dello psi game, ecco. Benissimo, non vedo l'ora di vedere cosa riuscirete a tirar fuori. Che brodo viene fuori. No, verrà fuori qualcosa di molto buono. E sempre a livello del tuo lavoro, tra virgolette, all'interno della community, abbiamo visto gli streaming che pubblichi. Sì. Dici un po', raccontaci, per chi, lo ammetto, anch'io sono tra questi, non li conosce così bene e deve ancora trovare il tempo di recuperarseli. Di che cosa si tratta? Allora, sostanzialmente è partita a fine luglio questa Steamhack League, che è una lega open in cui si possono giocare un qualsiasi numero di partite su Octagon con un qualsiasi numero di avversari, e sostanzialmente il tutto viene supportato da un Elo System che ne determina la classifica. Essendo open, me ne sono uscito un po' con un commento gagliardo, diciamo, andiamo ad insegnare a sti ammerregani a giocare a Netrunner, perché voglio dire, chiunque abbia avuto modo di leggere un qualche mio commento o di Paddosan o insomma di molte altre persone ad una partita degli ammerregani ha visto che non nutriamo una grandissima stima per il loro modo di giocare, anche quando commentiamo i mazzi ormai diamo per scontato una grandissima stima. Vabbè, una grandissima stima, che esatto. Taglierò, quindi lascerò un momento di gelo in modo che tutti possano subirlo. Ok. La prossima puntata non ci sarò più, ma vai. E quindi niente, ho detto, boh, visto che alla fine mi ci sto buttando, vediamo se facendo il video qualcuno magari decide di seguirmi, oppure nella Steamhack League intendo, oppure non so, si incontrano mazzi molto particolari, a qualcuno può interessare. E allora niente, in 448 mi sono letto un po' di guide per lo stream e ho buttato su. Da lì è nata la seconda rubrica, fondamentalmente, che è Know Your Meta, molto meno sostanzialmente incentrata su partite, diciamo, il cui livello è abbastanza agonistico su Octagon, devo dire, e, almeno per la Steamhack League, ma è incentrata sulla conoscenza, cioè sulla visione, diciamo, di mazzi particolari che hanno idee che da noi magari non sono state ancora prese in considerazione, conosciute, tirate fuori, e niente, si vede un pochino cosa gira per il mondo. Quindi ci sono mazzi molto strani, mazzi molto performanti, mazzi che inspiegabilmente hanno vinto tornei da 1000 giocatori, e ci si chiede un po' il perché, ma ce lo si chiede non leggendo la decklist, ma vedendo come funzionano. Un po' a tutti è capitato di andare su Steamhack, credo, anzi a tutti è capitato di andare su Steamhack, prendere un mazzo che ha vinto un torneo da 90 persone e dire: ma questo come ha fatto? Oppure cose così. E anziché, diciamo, sintetizzare tutto in un commento con altri giocatori, magari anche soltanto sul gruppo, che un commento che dice: questo mazzo non funziona, lo si vede proprio all'opera e si capisce il perché non funziona, o il perché funziona, o il che cosa non si era preso in considerazione, perché anche i commenti poi dopo di chi guarda sono molto utili. Magari, ma non hai considerato che questa cosa qui in verità andava bene con quell'altra. Cacchio, è vero, perché non è un mio mazzo, non è una meccanica che mi è familiare. Tante piccole cose. Mi hai convinto, devo assolutamente trovare il tempo di recuperarmi tutti. Ne ho visto... Ma ce ne sono anche di strani, Dennis, anche roba, cioè anche ciccio, ecco, per il tuo piatto. Ecco, sì. Sapevo che saresti andato lì. Quindi adesso il passo successivo... No, sto scherzando, ma il passo successivo potrebbe essere fare un bel tutorial su Octagon per chi come me è un po' incapace, in italiano. Io la butto lì, poi chi vuole farlo... Ho visto che il canale YouTube di Netrunner Italia è un po' povero, per quanto bellissimo. Sì, i video li carico sul mio di canale YouTube. Sì, ho visto. Se qualcuno vuole andare a vedere, basta che cerchi su YouTube o... Netrunner Know Your Meta, oppure direttamente Francesco D'Alessio, bene o male dovrebbe comparire il mio canale, e ci sono tutti quanti i video divisi per episodi. Allora, abbiamo l'ultima domanda, poi ti posso anche lasciare andare, quella un pochino più stronzetta. Beh. Io e tanti altri ci siamo appassionati a una cosa che tu fai sul gruppo, fai nella tua vita reale e poi racconti come testimonianza sul gruppo, ovvero alla tua voglia di collezionare le carte. Cioè, sei famoso anche per questo, perché è bellissimo quando tu pubblichi sul gruppo: ho trovato questa offerta, magari riferita a una carta, riferita a un'altra, e non tanto per... parlo a nome mio, ma penso anche degli altri che seguono con passione questo tuo interesse, non tanto per invidia, perché sì, da un lato ci piacerebbe tanto averle anche noi quelle carte, però proprio per passione verso una persona come te, che è così appassionata verso il collezionismo di Netrunner. Quindi volevo chiederti: è una cosa limitata a Netrunner, è una cosa che si estende anche ad altri giochi? E poi parlaci della tua collezione di Netrunner, carte, playmat, tutto quello che vuoi. Allora, dunque, devo dire che ho sempre un po' avuto il pallino di collezionare cose particolari dei giochi che mi piacevano molto, o di finire le collezioni nel caso fossero giochi collezionabili. Questo perché, non lo so, una forma veramente ossessiva, non c'è vero piacere dietro se non quello di dire: oh, ora sono a posto. Questo è sinceramente... Però non si è mai a posto. Una volta che la collezione finisce, si è a posto, devo dire. Sì, è una bella... è una sensazione di quiete, di soddisfazione, senz'altro. E, fu così per Magic, con estrema difficoltà, devo dire, ma fu così per Magic, fu così per Vitesse, fu così per, non so, anche videogiochi, League of Legends, fu così per Crossmaster, un sacco di cose, insomma. È un po' la mia indole, l'approccio, diciamo, aggressivo e un po' arraffone sul gioco. In Netrunner, in particolar modo, devo dire in tutta onestà che, oltre a quel genere di tranquillità di dire ho finito la collezione, sono a posto, qua ragazzi, cioè, le alt art sono veramente belle, cioè non c'è altro da dire. Ad aggiungersi a questo, c'è che tutto sommato è un mercato fondamentalmente, per certi versi, per certe carte, dispendioso. Però diciamo sano, perché non aggiunge niente al player, è puro e semplice collezionismo. E mi piace molto la cosa di non essere più forte o più debole per la mia collezione, ma di poterla continuare in una maniera totalmente svincolata da quello che poi è la mia produttività, diciamo, la mia performance in gioco. Poi io sono assolutamente innamorato dell'alt art di Eli, penso che sia geniale oltre ogni dire il fatto che questo bambino sia una barriera, perché passa le sue giornate a costruire muri di cubetti, cioè è proprio uno spunto fenomenale. E niente, questo è un po' il motivo per cui colleziono. L'altro motivo per cui colleziono, anche per cui colleziono tutti i giochi, cioè tutti i giochi di cui mi appassiono, è che quando la passione va, o quando la comunità si spegne, o quale che sia la ragione, hai un valore in mano, in ogni caso, sì. Che non è il rivendere il mio set e le mie espansioni al ribasso, al 60%, ma è rivendere il mio set e le mie collezioni al 60% e la mia collezione di alt art ad un valore che probabilmente è aumentato di un 10, 20, 30% anche. Conseguenzialmente è anche una maniera di rientrarci, perché nonostante io stia godendo di Netrunner forse più che chiunque altro, una grossa verità sugli LCG è che sono, c'è chi dice ad esaurimento, c'è chi dice ciclici, e con i cicli bisogna considerare anni fondamentalmente di depressioni del gioco in sé, del gioco organizzato, può essere una serie di espansioni sbagliate, una qualsiasi cosa che fa cadere il gioco, e fondamentalmente questo è un modo per poter rientrare dell'investimento, anzi poter dire cacchio, ho giocato, mi è piaciuto tantissimo, il momento è finito, me ne torno a casa con un bel bagaglio di esperienze, tanta piacevolezza e qualche dindino in più, se è andato bene, o quantomeno gli stessi. Ti rimane che qualcosa detto proprio fuori dai denti di concreto a livello economico. Esatto, esatto, e non soltanto un faldone a far polvere. Altrimenti poi te le tieni, perché immagino che tu ne sia innamorato. No, per la verità tutte quante le collezioni dei vecchi giochi che ho abbandonato hanno fatto questa fine qui, sono in mano a persone che dal momento in cui la passione per il gioco in sé per me è finita, loro invece l'hanno perpetrata. Allora mettimi tra i primi della lista nel caso in cui succederà. Va bene, se la fa. No, scherzo. Quanto alla collezione in sé, invece, al momento di alt art ho tutto. E questo è buono. E tutto quello che è uscito, almeno in singola copia, ecco. Private Security Force ne ho una e lì me ne manca una per avere la triplice copia, identità escluse. Playmat, mi mancano il primo introvabile playmat di Modded, su cui ha messo le mani Andrea Mezzotero. Credo ce l'abbia anche Paddo. No. Paddo ha, cioè il primo playmat è quello di Paddosan, che è non è quello sostanzialmente che raffigura l'identità di Shadow. Ah sì, ok, mi sono confuso. La runner neutrale dei draft, che quello è il primissimo playmat uscito. Poi c'è il playmat del nazionale, quello di Modded, di cui ne esistono una cinquantina di copie, che è lo stesso nazionale in cui ne ha dato Eli, fondamentalmente, per farvi capire, quello del 2012, che ne possiede una copia Andrea Mezzotero, ce n'è una in vendita su eBay a 340 euro, su cui ogni giorno vado a guardare se per caso non ha deciso di dimezzare. Se arrivasse a 339 già sarebbe interessante. No, ma quello che fotte lì sono le spese di importazione, perché viene a costare 500 euro quelle spese di importazione. Ah. Eh già. E, poi fondamentalmente credo mi manchi quello di Running Interference, ma quelli lì sono pochi euro, e che qualora voglia davvero appassionarmi ai playmat intesi proprio come collezione dei playmat, cosa che ancora non mi prende tantissimo, con una settantina, ottantina di euro riesco a prendere quello di Running Interference, quello di Wotan, che sono credo gli unici due che mi mancano. Ah, è quello del Plugged In Tour. Allora, chiudiamo con questa frase che voglio che tu completi. Mi hai citato delle alternative art belle, bellissime, hai detto che sono tutte belle, ma se io ti dico che ne esiste una la no, cui sono art tutte belle. Esatto, se te ne dico una la cui alternative è più brutta dell'originale, cosa ti viene in mente? Beh, chiaramente Adonis Campaign. Perfetto. Con questa carta bruttissima noi chiudiamo. Per la prossima puntata io ho già addocchiato un ex giocatore di un altro, o giocatore o che gioca ancora, non lo so, ma di un altro grande gioco di carte che ha iniziato Netrunner e sta facendo molto bene anche in Netrunner, quindi potrebbe essere interessante vedere come chi ha già vinto a livello nazionale ed è stato un grande campione di un gioco di carte come Magic, lo diciamo, si approccia a Netrunner e vediamo se riuscirò a convincerlo di essere catturato. Allora, intanto ti ringrazio. Grazie a te, Dennis. E con per Hostage è tutto. Ciao da Dennis. E ciao da Cesco. Seen things you people wouldn't believe. Maintenance mode turned on. Jack out.